Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 4th March 2019 from cchits.net. Today's show features a track by Mocha called Come La Musica. Vorrei che il nostro amore sia bello come la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Elle illumine ma vie comme une rivière de diamants. Elle se fait désirer depuis le temps, je l'attends patiemment. Accro, j'en deviens possessif, la partager c'est nada. Je la suis dans tous les coups avec la foulée de Nadal. À force d'y songer constamment, ça frise la pensée obscène. Y'a que dans le boulot que l'on récoltera ceux que l'on sème. Et y croire tous les jours ça a eu, j'en ai frôlé un cancer. Et ma seule thérapie c'est vous, un microphone, un concert. Elle m'apporte tant de joie, mais aussi plein de blèmes pro. M'a trompé tant de fois, mais le problème c'est que je l'aime trop. Jamais prévisible, elle reste inaccessible. Son influence est partout, je peux plus compter les heures. Elle est dans mes rires et mes pleurs. Elle touche nos points sensibles quand elle est accessible. Vorrei que notre amour sia bello comme la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Vorrei che il nostro amore sia bello come la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Perché no, non c'è niente di meglio che un messaggio che va dritto al cuore. Non c'è. Perché no, non c'è, non c'è messaggio che va dritto al cuore. Ogni nota un'emozione verso te. Voici le nouveau son, je le teste sans faille. Et j'aime ça, mélange pas lâcher de vibe que je taille. Éclate ça, c'est ce qu'il y a au fond de moi qui ressort, qu'il faut adapter, innover, inaugurer. Sous potentiel quasiment illimité, limiter les temps morts, les accélérations, changements vocaux, les jeux de scène, prise de photos, faut le vibe trop tôt. Yo, faut le vibe trop tôt. Vorrei que notre amour sia bello comme la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Vorrei che il nostro amore sia bello come la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Mano nella mano, portami lontano in quell'ideale nascosto per noi. E respiro piano, perché io ti amo come questa musica è quello che vuoi. Vorrei che il nostro amore sia bello come la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Vorrei che il nostro amore sia bello come la musica, per ascoltare le vibrazioni dentro di te. Perché no, non c'è, non c'è niente di meglio che un messaggio che va dritto al cuore. Un messaggio che va dritto al cuore. Non c'è, non c'è. Ogni nota è un'emozione. Ogni nota un'emozione verso te. Ogni nota un'emozione verso te. You were listening to a Creative Commons by attribution, no derivatives, licensed track by Mocha called Come La Musica. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net/daily/2019-0304. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week. Weekly show which is available from cchits.net/weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.